Abbiamo voluto sottolineare la centralità di tre temi rispetto alla ricostruzione post-alluvione in Romagna: sicurezza, innovazione e partecipazione, perché crediamo che ci sia bisogno di essere chiari su quello che si andrà a realizzare con gli interventi che devono essere proposti. Abbiamo sottolineato la necessità innanzitutto di basarsi sulla scienza, quindi su quello che è stato osservato dagli esperti immediatamente dopo l'episodio alluvionale. C'è la necessità di avere una prospettiva dal punto di vista anche della pianificazione, quindi di quello che dovrà essere realizzato non solo in un'ottica di emergenza, ma soprattutto rispetto a un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici, per evitare che quello che è avvenuto a maggio scorso si possa ripresentare in futuro anche con caratteristiche più gravi. C'è anche un tema legato proprio alla programmazione di quel che sarà. Abbiamo sentito anche alcune testimonianze, l'arrivo di alcuni fondi. Cioè, anche su questo abbiamo sentito che comunque, diciamo, vi batterete affinché ci sia più trasparenza, ecco, su quello che ci sarà da fare. Assolutamente, il tema della trasparenza è centrale. C'è una questione di poter accedere ai dati da parte delle associazioni, dei portatori di interesse, ma anche dei cittadini in generale. Quello che dovrà essere fatto sul territorio chiaramente richiede una conoscenza collettiva, proprio per evitare i rischi e i danni che si sono verificati, e quindi la richiesta di trasparenza va proprio in questa direzione, per far sì che ci sia una condivisione anche delle responsabilità con i territori, che a questo punto dovranno adattarsi per far fronte a quello che potrà accadere, speriamo di no, ma che potrà accadere nei prossimi anni. Avete parlato anche di una raccolta fondi, la raccontiamo un attimo per dare una mano da alcune aziende proprio di tutto il territorio. Assolutamente sì, abbiamo realizzato una raccolta fondi insieme ad altre realtà come Rete Humus, Biodistretto dell'Appennino Bolognese e altre associazioni, che hanno dato una mano a contattare i cittadini, a spiegare loro perché era importante aiutare le aziende e altre realtà del territorio romagnolo che erano state colpite. Gli esiti sono stati importanti, noi continuiamo però a impegnarci, perché come abbiamo detto oggi non basta questo contributo, è stato un contributo utile, ma c'è bisogno di un aiuto molto più grande che dovrà arrivare per aiutare questo territorio a risollevarsi. Il rischio che questa ricostruzione mantenga lo status quo e si perda un'occasione? Assolutamente, noi vediamo questo rischio, l'abbiamo visto immediatamente nelle settimane successive all'alluvione. Il motivo per cui oggi chiediamo trasparenza sui dati e una pianificazione nuova e capace di pensare all'adattamento ai cambiamenti climatici è proprio per questo, perché c'è bisogno di una nuova filosofia e di un nuovo modo di pensare il territorio, per far sì che ad esempio i fiumi abbiano più spazio e che l'acqua possa quindi aumentare senza però il rischio di tracimazioni né di rotture degli argini. Abbiamo bisogno di ridurre il consumo del suolo, che abbiamo detto impedisce l'assorbimento delle acque e quindi aumenta i danni per quelli che si trovano a valle, e quindi c'è bisogno in generale di ripensare il modo in cui il territorio è stato pianificato, anche con una trasformazione di quello che magari oggi non è stato impattato ma che in futuro potrebbe essere colpito. Grazie. Il motivo per cui oggi chiediamo trasparenza sui dati e una pianificazione nuova e capace di pensare all'adattamento ai cambiamenti climatici è proprio per questo, perché c'è bisogno di una nuova filosofia e di un nuovo modo di pensare il territorio, per far sì che ad esempio i fiumi abbiano più spazio e che l'acqua possa quindi aumentare senza però il rischio di tracimazioni né di rotture degli argini. Abbiamo bisogno di ridurre il consumo del suolo, che abbiamo detto impedisce l'assorbimento delle acque e quindi aumenta i danni per quelli che si trovano a valle, e quindi c'è bisogno in generale di ripensare il modo in cui il territorio è stato pianificato, anche con una trasformazione di quello che magari oggi non è stato impattato ma che in futuro potrebbe essere colpito.